Nel discorso con cui Mussolini il 3 gennaio del 1925 cerca di chiudere il caso Matteotti, dice che assume lui solo la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è accaduto. Usa tre aggettivi che suggeriscono una sorta di crescendo nei massimi sistemi ideologici della cultura umana, no? Politica, morale, storica. In Sodoma e Gomorra, che è il quarto volume della Recherche du temps perdu di Proust, l'autore si trova a parlare di un tempo in cui le persone bene educate osservavano la regola d'essere amabili e quella cosiddetta dei tre aggettivi. Fa l'esempio di una signora di tradizioni aristocratiche alla quale nel parlare un aggettivo encomiastico non bastava mai, e anche quando scriveva ne cuciva assieme esattamente tre, incorrendo in un inconveniente purtroppo, che la sua triade di aggettivi non riusciva mai ad assumere una struttura semantica progressiva, e invece finiva sempre in un diminuendo. In una lettera parlava delle qualità di un amico e le definiva uniche, rare, reali. In un'altra, invitando a cena, nel caso l'invito venisse accolto, si diceva beata, felice, contenta. Avesse avuto l'occasione o la necessità di aggiungere un quarto aggettivo, nota Proust, dell'amabilità iniziale non sarebbe rimasto più nulla. Che sono sfoggiati? Il linguaggio tradisce sempre qualcosa dei processi di valorizzazione in corso. Il Mussolini in crescendo, al di là del carattere stilistico del suo pensiero e del suo linguaggio, testimonia di tutta la sua ansia di riuscire persuasivo in un momento di particolare delicatezza. Ha favorito un assassinio e conseguentemente il suo progetto politico, diciamo così, che è a rischio. L'aristocratica di Proust, dall'alto della sua aristocraticità, non ha bisogno di affidarsi alla parola per risultare convincente. Convincente è il suo stato sociale. Può permettersi il diminuendo, può permettersi cioè quel particolarissimo patto comunicativo in grazia del quale, a buona parte di ciò che dice, dall'interlocutore viene concesso lo statuto di vezzo. Una sorta di limbo linguistico in cui pensieri e parole permangono nella gratuità più innocente. Non sempre, tuttavia, il lavoro dell'analista del linguaggio è così semplice, eh? A volte le triadi sembrano composte senza che alcun criterio le orienti palesemente in una direzione o nell'altra. Faccio un paio di esempi. Nella Francia di questi giorni si dice è in atto un processo demolitorio contro il famoso filosofo Bernard Henri Lévy, e il Corriere della Sera ne riferisce titolando «Bello, cinico, vanesio, tutti contro Henri Lévy». Si passa dall'applicazione di un criterio estetico ad un criterio morale, e quindi ad un criterio che, riguardando le capacità, non so, potremmo definire come funzionale. Il primo termine è bello, sembrerebbe positivo. Il secondo negativo, certo cinico, ma secondo certe ottiche sociali diciamo che è anche utile, no? Mentre il terzo, designando vanesio, che viene dal vanum latino, il vuoto, quindi designando la vuotaggine, sembrerebbe decisamente negativo. Un percorso a diminuire, dunque. Ma contestualizzando l'espressione, ricordandosi che si sta parlando di un filosofo, si sta parlando non di un attore, di un modello, ecco che bello, bello è già subito di primo acchito diventato un insulto, mentre il vanesio è già diventata la condizione necessaria affinché possa essere anche cinico, perché è nel vuoto di valori propri che possono essere disprezzati sempre e comunque i valori altrui. L'attrice Béatrice Dahl, l'interprete di Betty Blue di Jean-Jacques Benet nell'86, si sposa. Ma in virtù di una ben nota perversione dell'informazione concernente le star, la notizia, quella data dai giornali, è che Béatrice Dahl sposa un detenuto, il che vale, diciamo, l'intervista a Marco Bellocchio, regista che nell'88 l'ha diretta nella Visione del Sabba, il quale Bellocchio, fra il poco d'altro che si può dire, trova il modo di dire che nei comportamenti della Dahl c'era, a suo parere, una provocazione estetica, anarchica, nichilista. Ora, questa triade è palesemente problematica. Anarchica e nichilista, per esempio, vabbè, sembra un'accoppiata un po' vecchiotta. I due aggettivi potevano andare a braccetto in qualche caso e non in tutti, almeno diciamo fino a tutto l'Ottocento. Ma più tardi le loro strade si sono irrimediabilmente divise, tanto che di nichilisti se ne sono trovati sempre più pochini. Con l'estetica poi la coppia non quadra. L'anarchia e il nichilismo sono progettazioni politiche costruite sulla disparità di classe, questioni di economia e di politica, non di estetica. A meno che di non volerle squalificare, valorizzarle molto in negativo, privarle di sensatezza già nell'associarle, il che è forse proprio quel che Bellocchio, surrettiziamente senza pagare il dazio di un'esplicita dichiarazione, voleva fare. Nella triade riservata a Lévy, dunque, il movimento interno è confuso, pur mantenendo i tre aggettivi una loro coerenza paradigmatica. Nella triade riservata alla Dahl, invece, potrebbe essere individuabile un movimento in crescendo, no? Verso il peggio, ma la compatibilità stessa degli aggettivi è piuttosto dubbia. Mentre indubbio, questo sì, indubbio il giudizio negativo sull'attrice e su che sia questa volesse fare della propria vita, fosse anche sposarsi, e fosse anche sposarsi un detenuto. Sono tre anche le ragioni addotte dal quotidiano del Partito Comunista della Corea del Nord perché i coreani maschi non portino i capelli alla Bernard-Henri Lévy e perché invece li portino corti, anzi cortissimi, ricorrendo conseguentemente almeno una volta ogni 15 giorni al barbiere. Allora, sono tre. La prima ragione o il primo motivo sono che i capelli lunghi sarebbero un segnale di decadenza capitalista. Il secondo motivo è che i capelli lunghi consumano molti elementi nutritivi e possono privare il cervello di una parte di energia. Il terzo è che le persone che conducono un tipo di vita che non è loro, diverranno degli idioti, e provocheranno la rovina della nazione, rovina. Passando dall'ideologico al biologico e quindi al culturale, si profilano tre minacciosi orizzonti agli occhi di un popolo represso. Salta all'occhio la tenacia stilistica con cui si caratterizzano le comunicazioni di ogni sistema autoritario che voglia farsi rispettare. Gli elementi nutritivi e l'energia risucchiati via dai capelli al cervello ricordano molto gli stigmi lanciati sulla masturbazione sia in ambito di cattolicesimo che in ambito di maoismo. Conseguentemente, mentre risulta molto dubbia la sua sensatezza complessiva, sembra tuttavia certo che si tratti di una triade in crescendo. Ma l'aver lasciato al primo posto l'argomento ideologico, la decadenza capitalista, non depone a favore né della forza di persuasione del regime coreano, né della fiducia nei propri mezzi e dei propri scopi. È il caso in cui la crescita dell'enfasi tradisce la debolezza di chi comunica. Gli aggettivi sono il frutto della capacità di aggiungere distinguendo. La loro storia registra le operazioni mentali compiute e suggerisce le condizioni in cui si sono rese possibili queste operazioni e necessarie. Dal punto di vista strettamente evoluzionistico, costituiscono una risorsa straordinaria. Perché? Ecco, perché ad un certo punto nei salotti e nelle piazze sia saltata fuori la regola del 3, non lo so. Sospetto che abbia a che fare con le nostre esigenze di ritmo, con la natura correlazionale del pensiero, e sospetto che a ciò non sia neppure estranea la classica suddivisione in tesi, antitesi e sintesi della logica dialettica. Sono del tutto convinto però che a starci attenti, nel momento in cui questa regola non scritta da nessuna parte viene puntualmente applicata, a starci attenti si ha tutto da guadagnare. Perché? Perché si sa qualcosa in più su chi l'ha usata e spesso si sa qualcosa che chi l'ha usata aveva tutte le intenzioni di tenersi per sé.